Napoli per me vicina, nascosta negli occhi di mia madre. Napoli naturalistica, Napoli delle sceneggiate. Napoli così spensierata, Napoli del caffè d'oro. Napoli che ride del suo tesoro. Napoli piena di luci e di facce tristi. Napoli che gioca scalza fuori dalla galleria. Napoli e i suoi piedi santi di ragazzi così stanchi. Napoli è una valigia da portare via. Napoli, bella vista, cucita su una cartolina. Napoli sotto al Vesuvio sembra quasi ballerina. Napoli che resiste, Napoli così forte. Napoli al calar del giorno e della notte. Napoli della messa e di San Gennaro. Napoli è un miraggio scambiato per un ladro. Napoli del biglietto, Napoli è la stazione. Napoli è una mia lacrima caduta dentro un vagone. Napoli come un poeta che si innamora e canta. Napoli dietro la porta che si scontra. Napoli parole strane capite un po' a casaccio. Napoli sotto la luna che fa l'amore sul terrazzo. Napoli ora lontana, Napoli nei miei sogni, Napoli che risveglia